Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Come si volerà nel prossimo futuro? Come cambierà la vita a bordo e in aeroporto? Sarà possibile ridurre i tempi morti? A queste e ad altre domande cercheremo di rispondere oggi con l'aiuto di Francesco Violante. Buonasera Violante. Buonasera. Dunque, Francesco Violante è CEO, quindi amministratore delegato di SITA, società specializzata nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni IT per l'industria del trasporto aereo. Tenete presente che SITA è posseduta da oltre 500 tra compagnie aeree, aeroporti, industrie aerospaziali, quindi insomma, è un operatore che sviluppa tecnologie per conto di gran parte del mondo dell'aeronautica. Dunque, Violante, le chiedo quindi, voi dal vostro osservatorio, quali sono le esigenze più forti che stanno emergendo per quanto riguarda il viaggio in aereo? Allora, io le inquadrerei in quattro punti. La prima è quella della semplificazione delle varie fasi del viaggio e quindi rendere l'esperienza del viaggio più facile e piacevole. A nessuno piace stare a lungo nelle code degli aeroporti, certo, perdere tempo nell'attesa dei bagagli e spesso restare senza bagagli. La riduzione dei tempi di attesa e quindi migliorare l'utilizzo del tempo speso negli aeroporti, l'esigenza di essere sempre più connessi alla rete, leggere le proprie mail, le news, accedere a internet, inviare e ricevere messaggi. E poi, senza nascondere l'ultimo punto che forse è anche più importante, è quello di avere sicurezza, certo, soprattutto nelle fasi del volo. Ecco dunque Violante, allora proviamo a ripercorrere a questo punto le tappe di un viaggio in aereo, diciamo che potremmo situare tra una decina di anni o giù di lì, per capire come cambia il modo di viaggiare. Probabilmente andremo avanti, anzi sicuramente nella puntata di domani, perché come vedremo ci sono tante cose da raccontare. Partiamo dalla pianificazione del viaggio. Come cambia la pianificazione del viaggio? Sì, è importante dire che queste tecnologie di cui parlerò sono disponibili molte anche oggi, certo, chiaramente non in tutti gli aeroporti, però il trend è quello che lei diceva: nei prossimi 10 anni sempre più si utilizzeranno tecnologie digitali. Beh, allora parliamo della pianificazione. Intanto la prenotazione e l'acquisto del biglietto, tutta questa fase è cambiata. Oggi sempre di più si viene fatta via web e spesso utilizzando il proprio tablet o uno smartphone. Non dimentichiamo che oggi il 70% delle persone che viaggiano in aereo hanno uno smartphone. Sì. Si utilizzano siti che aggregano le informazioni, certo, sulle tariffe. Per esempio oggi il 74% dei passeggeri prenotano via web. Il 40% dei biglietti in Europa oggi sono venduti via website. Quindi se lei proietta questo entro il 2015... si prevede che circa il 90% delle compagnie aeree venderanno i biglietti via mobile device. Ma non solo il website è una cosa importante che quindi sta cambiando il modo di prenotare e pianificare il proprio viaggio, ma anche i social networks. Il 40% delle compagnie aeree promuove i propri voli via social network e nel 2015 circa il 90% di loro lo farà. È possibile, per esempio, già oggi, noi abbiamo un'applicazione fatta per la Malaysian Airlines, prenotare via Facebook e quindi tramite la pagina Facebook di questa applicazione, che sì, si chiama MH Buddy, è possibile acquistare un volo, effettuare il check-in, ricevere la carta d'imbarco via mail o sul telefonino e poi anche scoprire, nel caso uno voglia farlo e se ne ha dato l'autorizzazione, gli amici di Facebook che si trovano nella città di destinazione in quel momento o addirittura sullo stesso aereo. Sullo stesso aereo. Scegliere nel posto, uno poi decide se vuole sedersi vicino. Ecco, diciamo che sì, o magari dalla parte opposta dell'aereo, chi lo sa, in qualche caso sì, non è da escludere. Come si dice, diciamo che questo elemento social forse è quello più innovativo, perché di per sé appunto, diciamo, l'abitudine di prenotare i voli ormai anche alberghi, vacanze e quant'altro tramite web è veramente ormai già un fatto molto diffuso, cioè, direi proprio di sì. Un altro tema molto caldo, diciamo che preoccupa un po' tutti, quando scendiamo dall'aereo e stiamo andando in vacanza, tutti andiamo a ritirare il bagaglio incrociando le dita, perché sappiamo che capita che si perdano. Qui ci dovrebbero essere delle novità. Sì, ci sono, diciamo già oggi noi abbiamo realizzato, non soltanto noi, applicazioni che consentono di gestire i bagagli in maniera più precisa e ridurre quindi il numero dei bagagli disguidati E questo è già installato per esempio nell'aeroporto di Roma, dove questo è avvenuto, e oggi circa si scende da 37 a 11 bagagli per ogni 1000 passeggeri disquitati. In termini di tecnologia, che cosa si prevede? Beh, in fase di accettazione del bagaglio si andrà sempre più verso quello che si chiama il self-boarding gate, quindi la possibilità per il passeggero di fare il proprio check-in, il check-in del proprio bagaglio direttamente, ricevere la targhetta del bagaglio, la ricevuta direttamente sul cellulare, e quindi sarà possibile avere questa ricevuta elettronica con un numero, e attraverso questo ci saranno dei sistemi di riconciliazione che consentiranno di far sapere sul cellulare del passeggero in ogni fase del volo dove il bagaglio si trova. Per esempio, se è stato imbarcato sull'aereo che lui prende, e quindi già questo gli dà un sollievo, e poi quando arriva addirittura per ridurre o per utilizzare meglio il tempo di attesa davanti al carosello dei bagagli, quando il bagaglio arriva sul carosello gli arriva un'informazione sul cellulare, e quindi lui in quel momento si avvicina, prende il bagaglio e quindi torna a casa felice e contento. E magari se il bagaglio invece è stato smarrito, ha avuto un problema, si evita l'attesa poi di scoprire che il bagaglio non c'è, poi di andare all'ufficio bagagli smarriti, si riceve subito un'informazione, ed è possibile anche compilare il modulo di informazione sul proprio bagaglio smarrito, l'indirizzo eccetera, in maniera elettronica, e quindi uno va in albergo a casa e poi riceverà il bagaglio a casa. Tra l'altro, diciamo, proprio l'atto del depositare il bagaglio è anche semplificato, perché anche qui si immaginano procedure automatiche, un po' tutto è l'insegna, diciamo, dell'automatizzazione delle procedure, per cui uno, diciamo, appoggerà il bagaglio da qualche parte, riceve un talloncino, glielo attacca sopra, un talloncino elettronico, e questo consente di tracciare il bagaglio, giusto? È un po'... Assolutamente sì. E da cui discendono un po' tutte quelle possibilità di cui abbiamo parlato. Dunque, Violante, io adesso la fermo, ma ci risentiamo domani per parlare del resto del viaggio aereo del futuro. Con piacere. A domani.